Thank you.

rovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girandoli qua e là e qua e là e qua. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Ti piacer che sarà. La, la, che piacer che sarà. La, la, la, la, la, la, la, la. Vieni, vieni, carina, godiamo. Vi mangiamo, balliamo e cantiamo. Vieni, vieni, carina, godiamo. Che piacer che sarà. La, che piacer che sarà. La, la, la, che piacer che sarà. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tanti bel mio fil ci sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio? Sì, signore, e la sposa sono io. Me ne consolo. Lo sposo? Io per servirlo. Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo. Basta che sia marito. Oh, il mio masetto è un buon dottimo cuore. Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome? Zerlina. Il tuo? Masetto. Oh, caro il mio masetto, cara la mia Zerlina, ti esibisco la mia protezione. Oh! Leporello, cosa fai di birbone? Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione. Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini presciutti, cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetti fa che resti contento il mio masetto. Hai capito? Ho capito. Andiamo. Signore! Cosa c'è? La Zerlina senza me non può star. Il nostro loco ci sarà, sua eccellenza, e saprà bene farne i vostri parti. Non la Zerlina, e mando un cavalier. Va pur, fra poco il lameco verrà. Non temere, e nella mani sono io il cavaliere. E per questo? E per questo non c'è da dubitar. Ed io, costetto. Olà, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto, bada ben, ti pentirai. Ho capito, signor sì, signor sì, fino il capo e me ne vo. Già che piaccia a voi così, altre repliche non può, non, non, non, non, non, non, non, non. Cavalier, voi siete già, che dubitar non possa fe, me lo dice la bontà, e volete aver per me, aver per me, aver per me. Riconaccia, malandrina, fostagnola mia ruina, fostagnola mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Riconaccia, malandrina, fostagnola mia ruina, fostagnola mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere, faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Fin sian liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone. Che ne dite, mio ben, so far pulito? Signore mio marito! Chi? Colui? vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato. Ma, signor, io li diedi parola di sposarlo. Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli e quei labbretti si belli, queste dituccia candide odorose. Parmi toccar giuncata e fiutar rose. Ma non vorrei. Che non vorreste? Alfine, ingannato restar. Io so che rado con le donne voi altri cavalieri. Siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in quest'istante io vi voglio sposar. Voi? Certo io, quel casinetto è mio. Soli saremo, e la gioiello mio ci sposeremo. La cilarem l'amaro, la mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei, non vorrei, mi trema un poco il cor. Felice ver sarì, ma può burlarmi ancor no, può burlarmi ancor. Vieni, mio fedì. Io canterò tua sorte. Cristo, danzon più forte, danzon più forte, danzon più forte. Vieni, vieni, qua ci darem la mano. Vorrei, non vorrei. Partiam ben mio da qui. Vieni, mio bello, io canterò tua sorte. Andiam, andiam. Signor cavaliere, è ver quel che la dice? la povera infelice è di me innamorata, e per pietà del zio fingere amore, io son per mia disgrazia uom di buon cuore. Tutti quanti. Accora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni. Mancava quest'intoppo. Signore, a tempo vi ricepiam, avete cuore, avete animo generoso. Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché? Bisogno abbiamo della vostra amicizia. Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbar del viver vostro? Oh, ti trovo ancor perfida mostra. Non ti fidar, oh misero, di quel rivaldo cor. Me già tradì quel marmolo, te vuol tradire ancor. Tieni, che aspetta nobile, Thank you. C'è un precipizio. Perdonate, bellissima donanna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto. Amici, addio.